4D. Ascolta e rispondi. Dove lavora Luisa? Lavora in un albergo. Che cosa studia Luisa? Studia lingue. A che ora comincia la lezione? Comincia alle 9. Chi aspetta Luisa? Aspetta Simona. A che ora termina la lezione? Termina alle 13.